come intro. Come intro. Come intro. È diventato un circolo vizioso. Se un pezzo in radio fa cagare, corro in studio come Dovizioso a registrare ancora un album. Qui siamo in Italia e tutto fa curriculum, sì. E se nel tuo c'è scritto che fai l'influencer, sul mio grazie a te c'è scritto ancora rapper. Rudy, ma aspetta, in forma ha in forno un'altra bomba, mentre mi avvisa che sto scavando mi la tomba. Mamma che rima di tensione, mamma che rima e che emozione, c'ho la rima a mano armata e mira a rovinarti la giornata. Mira giga come l'ho incastrata, anche se a te sembra una cazzata. Gira al largo, va per la tua strada, minchia t'avviso che bella incazzata. Tiriamo fuori un'altra bomba dal cilindro, disinnescala se ne sei capace. O la piazziamo come intro, come intro. Se esplode bene, altrimenti pace. Tiriamo fuori un'altra bomba dal cilindro, disinnescala se ne sei capace. O la piazziamo come intro, come intro. Se esplode bene, altrimenti pace. Pace. Come intro. Come intro. Come intro. Benvenuto, dimmi se ti piace la mia mise en place. Fa come fossi a casa tua, intanto accendo il gas. Sto preparando la miscela più esplosiva, è la ricetta della nonna, una dose eccessiva. E ditemi cosa vi aspettate da me, che mi siedo con voi e l'aspettiamo insieme. Ero paziente, sono stato dimesso, stavo davvero male, ma come stavo messo. Ero morto di fama in attesa dell'elogio, quello funebre, guardavo fisso l'orologio e facevo respiri senza uguali, come quando stiri a 40 gradi tirando sospiri, sero tra gli squali, sì. Avevo più stili che scheletri negli armadi. Oggi che siamo diventati pappe ciccia, costruisco bombe e ci metto la miccia. Tiriamo fuori un'altra bomba dal cilindro, disinnescala se ne sei capace. O la piazziamo come intro, come intro. Se esplode bene,